Milano. Milano come città ha una quantità di problemi e una classe dirigente che non sempre ne è all'altezza, ma nessuno può dubitare della prontezza di spirito di certi suoi amministratori. Prendiamo il caso di quel Massimo Girtanner, presidente del Consiglio della Zona 6, che martedì scorso, come delegato del sindaco, era incaricato della celebrazione dei matrimoni civili a Palazzo Dugnani. Gli è bastato un attimo per capire che una delle coppie in attesa era in qualche modo sospetta. Il fatto che un giovanotto egiziano di 27 anni d'età fosse in procinto di prendere in moglie una signora italiana oltre gli 80 sarebbe forse sembrato normale a qualcun altro, ma a lui certo no. Difficile, ha dichiarato ai giornali il giorno dopo, che si trattasse di un amore appena sbocciato sul nido. E visto che in casi come questo è sempre consigliabile un controllino in questura e la celebrazione incombeva, l'astuto presidente, ricorrendo a un abile stratagemma, dice la stampa, ha cominciato con lo sbrigare gli altri matrimoni, ha rinviato quelle nozze sospette finché proprio non ha potuto far altro che celebrarle, guadagnando peraltro il tempo sufficiente per scoprire che il nome della controparte maschile figurava nell'elenco dei ricercati. Per motivi che la Repubblica, da cui ricavo la notizia, non ritiene opportuno indicare, mentre il Corriere, che ne riferisce in forma più succinta, precisa come rapina e mancata ottemperanza a un ordine di espulsione. E che fare allora? Beh, è semplice. Con una scusa il celebrante ha chiesto agli sposi di tornare nel pomeriggio per firmare altri documenti. Ed è stato allora, leggo, che sono scattate le manette degli agenti della polizia municipale per il 27enne e la sua complice. E complice, che va precisato, non era l'anziana sposa, ma un'imprevista ragazza ucraina che aveva assistito alla cerimonia, e cosa c'entrasse dall'articolo proprio non si capisce. Sono fiero di ciò che ho fatto, ha dichiarato soddisfatto il presidente Girtanner, visto che di solito tutti si nascondono. L'espressione può parere oscura, ma il gesto, in ogni caso, è valso al volpino amministratore i complimenti del vice sindaco e assessore alla sicurezza Giuseppe Decorato, per il quale questo episodio è una triste testimonianza di come gli anziani possano essere vittime di raggiri, ma l'arresto dei vigili è un messaggio di fermezza. Questa è la cronaca spogliata dagli orpelli dai riferimenti cinematografici di un paio di colleghi giornalisti che non si sono negati il piacere di fare, come si usa in questi casi, un po' di colore. Uno ha trovato nella sequenza degli eventi addirittura delle movenze da film da Hitchcock, e come abbia fatto non lo so. Ed è un peccato che, sfumata l'ammirazione per un'operazione tanto brillante, chi si provi a rileggere il resoconto dei fatti con un minimo di acribia trova difficile, con tutto rispetto, sfuggire all'impressione che qualcosa non torni, che qualcuno non l'abbia raccontata proprio giusta. Non è solo il fatto che un presidente di zona così lesto di cervello sembra contrapporsi come in una pantomima a un immigrato singolarmente ottuso, visto che bisogna essere ben sempliciotti per andare a sottoscrivere un pubblico atto nuziale sapendo di essere ricercati per rapina, e ripassare per di più al pomeriggio in seguito a una convocazione che chiunque, viste le circostanze, avrebbe considerato piuttosto sospetta. Ma sono cose che succedono. Nulla vieta per una volta che la tradizionale sagacia levantina abbia fatto cilecca. Ma per accettare l'episodio così come viene raccontato, bisogna superare almeno una difficoltà oggettiva, come dire l'atteggiamento di quei funzionari di questura che, apprendendo di avere un ricercato bello e pronto a Palazzo Dugnani, non si sono neanche presi la briga di mandare una volante a prelevarlo, delegando l'iniziativa dell'arresto alle autorità cittadine e costringendo gli agenti di polizia municipale, che poi sono i vigili urbani, a un ruolo non proprio protocollare di polizia giudiziaria. Simili poteri, per quello che ne so, ai corpi locali non sono stati ancora conferiti. Erano previsti in parte da quella legge di devolution che gli elettori hanno mostrato di non gradire. Ed è strano trovarli operanti in un contesto, per come viene rappresentato, essenzialmente giocoso. In realtà, In realtà tutto l'episodio sembra caratterizzato da una certa tendenza allo scambio delle funzioni. È vero che la condizione socio-anagrafica della coppia autorizzava i peggiori sospetti sulla buona fede matrimoniale di almeno uno dei due contraenti, ma non spettava certo al celebrante designato accertarlo, tanto è vero che alla fine sposarli comunque ha dovuto. Non è chiaro poi chi abbia coinvolto nella vicenda la ragazza ucraina, chi ne abbia accertato le generalità a ruolo di complice, chi l'abbia fatta arrestare perché, e non spettava naturalmente al vice sindaco, per quanto ampi siano i suoi poteri di assessore alla sicurezza, dare a tutta l'operazione il suo avallo. Per queste faccende di solito sarebbe meglio rivolgersi alla magistratura. E salvo naturalmente che la necessità di esprimere quello che il senatore Decolato ha definito un messaggio di fermezza non sia stata considerata così pressante da soverchiare qualsiasi altra possibile considerazione. E insomma, in una città in cui tutti di solito si nascondono, come osserva il furbissimo Giertanner, alludendo forse una scarsa propensione ambrosiana per il linciaggio etnico, in una città in cui tutti si nascondono, l'occasione di mettere al loro posto un paio di extracomunitari, evidentemente se non formalmente in torto, era troppo bella per lasciarsela sfuggire. Anche questo può essere considerato un messaggio, ma non mi sembra esattamente tranquillizzante.